Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, oggi parliamo un po' della sanità in generale, ma anche diamo uno sguardo a una notizia, perché parrebbe che ci siano sempre meno medici, no? Meno specialisti e anche medici di base. Sì, noi ci riferiamo a una recente indagine, a un recente studio condotto dalla NAO, e per appunto lanciare questo allarme, che speriamo che poi venga smentito col tempo, per il quale nell'arco degli anni andremo a perdere in Italia ovviamente circa 40.000 specialisti nel campo medico, oltre ai 16.000 medici di famiglia che mancheranno da qui a 7 anni, e che quindi insomma sicuramente andranno a creare grandi problemi per la cittadinanza. Diciamo subito che la questione degli specialisti non è legata a una crisi di vocazione, che invece possiamo far risalire ad alcuni anni fa. I ragazzi sono tornati a iscriversi a medicina, però diciamo che, come sanno bene i diretti interessati, tra numeri chiusi, soprattutto all'interno delle scuole di specializzazione, e blocco delle assunzioni, il famoso blocco delle assunzioni, ci potremmo trovare da qui a una decina d'anni, a 5, 6, 10 anni, senza 40.000 specialisti. E Francesco, questo si inserisce in un contesto in cui la sanità nel nostro paese oggettivamente va a direzioni diverse a seconda di dove ci si trova. Certo. Noi fortunatamente possiamo dire che nel nostro Veneto, che tra l'altro ha appena approntato una importante riforma della sanità, possiamo dire che per molti aspetti siamo anche fortunati. Però dopo le decisioni che vengono prese a livello nazionale, chiaramente le sentiamo anche noi, non possiamo farci niente, tipo per esempio la questione molto grave del pagamento della mammografia, che riteniamo, abbiamo già criticato più volte, l'hanno criticato tutti, può creare un grave problema, perché da una parte si spinge verso la prevenzione, dall'altra si porta la gente a pagare anche esami così importanti, e noi sappiamo benissimo come le cure, i costi delle cure sono la prima causa del fatto che appunto molte persone non vadano a curarsi, quindi alla fine alcune di loro debbano fare i conti con situazioni ormai irrecuperabili, sono appunto di malattie magari di un certo livello. Certo, tu hai citato la mammografia, sappiamo che è importante proprio prevenire, perché poi curare costa molto di più, e quindi alla fine è meglio spendere questi soldi per prevenire un tumore, o poi curare le persone quando ormai sono già in uno stadio avanzato, e questo complica ulteriormente le cose. Punto interrogativo. Qua lasciamo che ognuno risponda per proprio conto. Abbiamo parlato quindi di sanità, e devo dire che anche i medici di base rischiano un pochettino di calare come numero. Sì, abbiamo anche qua alcune indagini che dicono appunto che da qui a, anche qua stiamo parlando appunto di alcuni anni, potremmo perdere a livello italiano circa 16.000 medici di famiglia, e quindi insomma ci troveremo in questo caso in una situazione difficile, perché come abbiamo potuto notare tutti noi quando andiamo dal medico di famiglia, abbiamo potuto vedere che ormai hanno un'utenza molto elevata, anche perché chiaramente c'è stata anche una forte immigrazione, una forte crescita del numero degli immigrati, per cui diciamo il loro lavoro è sicuramente aumentato, e sappiamo che il medico di famiglia, al di là dell'utilità enorme che ha per il cittadino, diventa anche una specie di confidente, cioè il primo approccio lo si fa sempre col medico di famiglia, che al 90% dei casi conosce i propri pazienti, sa come comportarsi anche per esempio per annunciare certe patologie o certe situazioni, certe esami da dover affrontare. Quindi io ritengo che noi riteniamo che in realtà questo discorso della possibilità di perdere tutti questi medici di famiglia sia addirittura più grave per certi aspetti della perdita degli specialisti. Sono gravi ovviamente entrambe le cose, sì. Però il medico di famiglia, comunque il presidio territoriale di base, possiamo chiamarlo così, è fondamentale. Infatti la nuova riforma delle ASL prevista dalla regione, la nuova riforma della sanità, che ha previsto appunto anche una diminuzione delle ASL da 22 a 7, è una riforma importante e dobbiamo dire che anche ha degli aspetti positivi, anche la creazione dell'azienda zero, l'accentramento appunto di certe spese, di certe della parte amministrativa delle ASL. Però noi insisteremo, assieme sicuramente ad altre organizzazioni, affinché non diminuiscano i presidi sul territorio, certo, che sono i medici di base, che sono i pronto soccorso, che sono comunque quei punti di riferimento per il cittadino che appunto vuole avere la possibilità di avere dei riferimenti precisi, chiari, sul territorio, al di là appunto della visita specialistica, che comunque è sempre in una seconda fase solitamente. Io voglio dire una cosa, Francesco, leggevo proprio oggi il caso di un bambino, insomma, ma ce ne sono tantissimi, che aveva un problema urgente da affrontare, un esame urgente da affrontare, ha chiesto appunto, voleva fissare, i genitori chiaramente hanno fissato l'esame e la sanità pubblica gliel'ha fissato per maggio 2017. Rivolgendosi alla sanità privata, praticamente questo ragazzino farà, pagando ovviamente, farà lo stesso esame fra un paio di giorni. Questo ci pone delle questioni importanti, ovvero insomma capire cosa si possa davvero fare per migliorare una sanità che effettivamente rispetto anche ad altri paesi sicuramente può ritenersi ancora positiva. Però noi vorremmo che queste strutture insomma venissero sistemate. Noi non possiamo pensare che un bambino che ha bisogno di un esame urgente, se paga lo fa il giorno dopo, se non paga lo deve fare fra 7 mesi, con i rischi ovviamente che ci possono essere. Che possono essere delle complicazioni. Certo, ovviamente. E noi terremo gli occhi aperti, insomma insisteremo se servirà a denunciare anche queste cose. Grazie quindi all'Adico, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a te Gianluca, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.